La Torriune di Piccini Production, in associazione con i Culituni appena pulizzati, presentano Scena cambiale per te. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti qui ad una nuova puntata di C'è una cambiale per te. Dopo la prima puntata, diciamo pure esplosiva, stasera facciamo entrare per prima cosa il signor Totò Nutricoccia. Bravo, vai Totonno! Buonasera, buonasera e buoni trovati. Signora Maremma, sa che sei buono. Lo so, me lo dice pure il mio caro gnagnolino ballerino Garrison. Come mai lei, signor Totonno, ci ha contattati? Io, signora Maria, prima di partire alla Germania, stavo a ricevere i luzzi e mi voleva concetti per la chiatta. Solo che prima di partire la mia incinta non me ne è fregato più niente. Signor partuta e la lasciata fricca perché il padre mi voleva dare, mi voleva sparare dopo che aveva fatto lo scostumato. Mo signor ricordo da Germania, ma signor senza soldi e saccio che Idre ancora aveva. Ed è pensato che mi voleva torna. E volesse accanoce pure che ero figlio mio. Ma signor Totonno, certo che lei ha una faccia tosta a cercare una donna dopo 40 anni in lontananza e che l'ha lasciata pure gravida. Comunque, vediamo se che lo farà butto Ottaviano l'ha trovata a San Cristiano. Ottavia! La signora Concetta ha accettato l'invito. Ma lei a quando ha accettato? Dopo che c'era 50 euro. Ma io ne che posso la sorte a ricendere che prende il gioco già sul programma di merda. E ci ha buscato pure una mozzicone di canna se la aiuta per la saciotta. Ottavia, stati zitto che sei extracomunitario. Ed è già una cosa che ti facciamo lavorare. Fammi già la saciotta mo e muovati che dopo ieri a balla qua ce l'andare. Babbo, la signora Concetta è qui. Casa Cuncia, ma non è che ti ha portato fuori a Nutanintura. Buonasera a tutti, signora Marie. Grazie per un mito, ma hai dovuto passare a casa a 14 figli mia. Ah, a proposito, ti saluto. Ara, facci tu, cazzo. 14 figli? Benedica. Comunque, banda alla cioncia. Vediamo chi l'ha mandata a chiamare. Apriamo, prego. Lo conosce? Marie, su te su per i miei anni sono passati mascole. Ma che so, mo ricordo. E tu donni ricoccia, chiaro che c'hai fatto il primo figlio, sì, e poi è scappata da Germania, o bastardo. T'ha lasciata la giungere a Germania, ah? Oh, vitoso! Cunce, parta mi voleva sparare, e mi segno fu scappato. E mo segno senza soldi e mi segno ricordo per te piglia torna. Ma t'alliscio io pilo il lordo. Se ti vuoi ricogliere la serra civita, scusate l'emozione. E dai, mangia mia e ari 14 figli mia. Ognuno te ne hanno patro diverso, E c'è pure un onivoro, un miscato, ma... Che manco onivoro, me l'hai fatto tuia. Dico, me ne si ricoglia. Signora Mare, già signor senza sordi, mi posso ricogliere la serra civita con chissà che dintra gioventù menzi di gambe, che viene una fabbrica di quattro. Altro che una cambiale. Oi tato, io avevo di mangiare 14 figli e ogni tanto ci scappava un aperitivo con uno mascolo. Altro che un aperitivo, tutti scialavano avuto, Lord. Allora, signor Totonno, bando alle ciance, veniamo a quagliare, come si dice. Cosa decide di fare? Dice, la rinuncia a conoscere Cuncetta come è diventata e il suo figlio, oppure... vuole approfondire la conoscenza. E su cazzino mandifa. Io mi scappo tornare a Germania, cioè. Io la tutto cambiare litre, poi sì, e bus. Che invece mi ricogliere. Bravo! Silenzio, per favore, silenzio. Che invece. Emozionato! Mi chiamo emozionato, ma io! Che invece mi ricoglie le serie civiche, che è meglio che mi vai chiudendo già quattro tavole. Ma che ne cazzo mi ha fatto, ma mi ricoglie. Ma me ne pure a passaggio la Germania in guacchita e concia. Chiudiamo la cambiale. È la prima volta che una persona chiude la cambiale dall'altra parte. Ma Però che cazzo con cepolo tu ogni tanto ti puoi dire, chiudi si cosce.